24 mattino. Le 8 e 16 minuti, ben ritrovati, 24 mattino, et radio24.it, questa è la nostra mail, parliamo di economia come di consueto a quest'ora, economia. Soldi e dintorni. E lo facciamo con Deborah Rosciani, che è venuta a ritrovarci. Ben ritrovata, buon lunedì, buongiorno. Sì, non lo dire con questo tono, però mi devo vendicare, no, di lunedì scorso. Ti sei vendicata, il tono era perfetto, ti sei vendicata ottimamente di una settimana fa. Allora, oggi un bel tema abbiamo. L'evasione. L'evasione, sì, l'evasione nel senso fiscale. Esatto. Ovviamente. Sì, perché esatto, c'è anche un tema sul quale purtroppo in Italia siamo molto ferrati. Ferratissimi. E allora io ti dico, Alessandro, di fare attenzione a sfoggiare, come fai di solito, pellicce e auto di lusso circolando per Milano, perché hai beccato la persona giusta. Esattamente, soprattutto per la Ferrari, perché se nei comuni grandi ci si può anche confondere, in quelli più piccoli è difficile passare inosservati e i comuni possono segnalare un tenore di vita che non è compatibile con i redditi dichiarati direttamente all'Agenzia delle Entrate. Non è che questa sia esattamente una novità, perché le segnalazioni incrociate esistevano già. Diciamo che adesso è arrivata una procedura standard, che è rigorosamente telematica, per le segnalazioni dei comuni in materia di lotta all'evasione fiscale attraverso uno strumento che adesso capiremo come funziona, che si chiama SIATEL. E allora di che cosa parliamo stamattina? Cercheremo di capirlo meglio intanto con un esperto di questioni fiscali delle Sole 24 Ore, che di questo argomento ha scritto parecchio negli ultimi giorni. Tonino Morina, buongiorno. Salve Deborah, buongiorno a tutti. E poi sentiremo anche, insomma, qualche aspetto colorito, chiamiamolo così, legato al fenomeno diffusissimo purtroppo e che costa tanto anche alla nostra economia, dell'evasione fiscale, con Roberto Ippolito, collega, giornalista, editor del Festival dell'Economia di Trento, autore del libro appena uscito Evasori, chi, come, quanto, l'inchiesta sull'evasione fiscale. Roberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Allora, cominciamo subito con Tonino Morina per capire un po' meglio come, che cosa cambia in tema di, come dire, incrocio di informazioni fra le amministrazioni comunali e l'amministrazione fiscale, perché da una settimana appunto gli enti locali, le amministrazioni comunali possono segnalare all'Agenzia delle Entrate i dati utili a questi controlli ai fini appunto dell'evasione fiscale esclusivamente attraverso un'apposita procedura telematica. Che cosa cambia, Tonino? Ma cambia che i comuni potranno essere, tra virgolette, delatori degli evasori, nel senso che in base al tenore di vita, allo stile di vita del cittadino, che i comuni, i sindaci possono, tra virgolette, essere più vicini al territorio, segnalano eventuali incongruenze tra il reddito dichiarato e i beni posseduti. Cambia che il comune dal 9 febbraio, con questa procedura informatica, può segnalare all'Agenzia delle Entrate queste situazioni anomali e praticamente, avendo il controllo con la stessa procedura informatica di tutti i beni e servizi posseduti dal contribuente, come gas, luce, acqua, locazione e quant'altro, naturalmente ha una banca dati nella quale il comune può accedere, verificare, controllare, e a questo punto è arrivato, se quel contribuente, esempio, possiede diversi beni immobili, diverse macchine di grossa cilindrata, magari ha fatto investimenti di 1 milione di euro negli ultimi anni, dichiaro reddito e per esempio di 10.000 euro, naturalmente l'incongruenza è palese. Esatto, è una segnalazione qualificata, cosiddetta qualificata, che può essere fatta al fisco. Dobbiamo dire una cosa: chi di fa il proprio dovere non deve temere nulla, né redditometro, né studio di settore, né parametri, né quant'altro, perché le persone oneste, le persone serie, che per fortuna in Italia sono la stragrande maggioranza, non hanno nulla da temere da questi strumenti. Ecco, le persone oneste sono la stragrande maggioranza. Allora, prima di continuare a indagare nel merito di questo tipo di segnalazioni, appunto di rafforzamento, anzi di segnalazioni che i comuni potranno fare all'Agenzia delle Entrate, quindi al fisco, sul fenomeno dell'evasione fiscale volevo andare proprio con Roberto Ippolito, perché mai come in una circostanza di crisi come quella attuale vale la pena ricordare quanto ci costi l'evasione fiscale. Roberto, nel tuo libro tu lo ricordi chiaramente, forse non tutti sanno che i soldi non versati al fisco corrispondono a 7 punti percentuali del prodotto interno lordo italiano. Sì, stiamo parlando di almeno 100 miliardi di imposte evase ogni anno, cioè sono 100 miliardi i soldi che i contribuenti non onesti non danno ogni anno allo Stato. ed è evidente l'ingiustizia, se non altro vuol dire che chi paga correttamente le tasse paga anche 100 miliardi di chi non le paga. Esattamente, paga di più e tra l'altro non ci dimentichiamo anche quanto tutti questi mancati introiti poi ovviamente siano anche mancati servizi a favore di tutta quanta la popolazione. Qual è la tua valutazione, Roberto, rispetto all'accertamento fiscale legato allo stile di vita? Beh, è chiaro che il contrasto fra il tenore di vita e i redditi dichiarati è un punto fondamentale. Indagare su questo fronte è assolutamente essenziale. D'altra parte, tutte le volte che di recente questo è stato fatto, i risultati non sono mancati. Pensiamo poi all'intero capitolo immobiliare. Addirittura c'era il caso di un pregiudicato di Catania che aveva chiesto il patrocinio gratuito, ma aveva ville, auto e terreni per oltre 2000 metri quadrati. Allora, quelle ville e quei terreni consumavano qualcosa, avevano qualcosa che poteva risultare, la luce per esempio, quindi delle spie sono assolutamente fondamentali. Tra l'altro proprio al settore immobiliare è dedicata anche l'apertura del Sole 24 Ore di questa mattina: casa 3 miliardi di evasione, la perdita di gettito per locazioni in nero, edifici non dichiarati ed ex rurali nelle regioni del sud, è illegale un contratto di affitto su 3. Tra l'altro Tonino Morina, proprio particolare attenzione sarà rivolta al settore immobiliare, forse questo è un ambito su cui le amministrazioni comunali sono in grado di vigilare un po' più attentamente rispetto ad altri, o come quello, come anche, come dire, l'ambito commerciale. Ma sicuramente gli immobili sono chiamati immobili perché non si muovono, quindi è strano che ci sia questa grossa evasione. Si vede che forse manca, non dico la volontà politica, manca la forza, il controllo del territorio per verificare questi affitti in nero, che sono una vecchia piaga, tra virgolette. Quindi gli immobili ci sono, esistono, basterebbe fare un controllo. In alcune parti del paese sono stati fatti. Il nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, in questo provvedimento ha detto pure con la manovra d'estate che i controlli non solo degli immobili, non solo in base al redditometro, ma si possono estendere anche alle indagini finanziarie, cioè ai controlli bancari, che forse farebbero più paura agli evasori. Evade e magari ha in banca diversi milioni di euro, diverse centinaia di migliaia di euro, naturalmente penalizza la collettività, penalizza le persone oneste. E in un momento di crisi quale quello attuale, recuperare l'evasione laddove c'è ricchezza, perché il redditometro, non dimentichiamo, che misura la ricchezza dei cittadini contribuenti che magari, ripeto, posseggono tante belle cose ma dichiarano pochissimo al fisco, farebbe un bene alla collettività. Tra l'altro i comuni, ho la sensazione che faranno ben volentieri questi controlli, che intensificheranno appunto questi controlli, perché proprio ai comuni sarà riconosciuto il 30% delle maggiori imposte, interessi e sanzioni derivanti da tali accertamenti. Naturalmente, Tonino, sull'accertato, ma non sull'accertato, sull'incassato, sulle somme incassate dalla parte dell'erario. Perché l'accertare è un conto e incassare poi è un altro. Esatto, non dimentichiamo che certe volte si fanno accertamenti magari sbagliati e poi il fisco incassa 0,0, nel senso incassa pochissimo rispetto alle risorse impiegate. Perché un'altra cosa che è stato detto nella circolare che a suo tempo fece Massimo Romano, l'ex direttore, lo scorso anno, di guardare i costi e i benefici, nel senso inutile andare magari a disturbare persone, quindi si deve fare un controllo preventivo sulla base dei redditi posseduti, ma alla fine della fiera, nel senso che chiuso l'accertamento, fatto l'accertamento, arrivata la cartella o fatta l'adesione, perché ricordiamoci che ci sono molti strumenti cosiddetti deflattivi del contenzioso, l'accertamento con adesione, cioè il contribuente accetta la contestazione del fisco, il fisco incassa 100, 30 va al comune, quindi il comune ha un interesse molto importante e molto rilevante a fare delle segnalazioni giuste e opportune nei confronti di chi evade e non fa il proprio dovere. Tra l'altro alcuni grandi comuni hanno già attivato la nuova procedura, si tratta di Roma, di Torino e Bologna. Nessuno dei tre assessori al bilancio interessati che abbiamo interpellato questa mattina aveva tempo di raccontarci come fosse andata questa esperienza. Pazienza, Roberto. Ippolito, in base però alla procedura di controllo incrociato, adesso non è una circostanza che riguarda i comuni che abbiamo segnalato, ma in realtà sarà abbastanza difficile che a Perugia, di cui racconti tu proprio nel primo capitolo del tuo libro, continuano a passare inosservate tutte le auto di una certa cilindrata che invadono le strade della città. Proprio la prima pagina del mio libro, esatto. Evasori, racconta il caso di Perugia, non ce l'abbiamo anche qui con i perugini chiaramente, no, dove ci sono 30.500 auto di oltre 2.000 di centimetri cubi, auto quindi di lusso, auto potenti, ma soltanto 2.200 contribuenti che hanno un reddito dichiarato oltre i 100.000 euro, quindi un reddito che sembrerebbe sufficiente per permettersi queste auto. Se facciamo la statistica, la media, dovremmo dire che ogni perugino che guadagna bene possiede 13 auto e mezzo potenti, e ovviamente qualcosa non quadra. A Norcia addirittura i 4 cittadini che hanno più di 100.000 euro di reddito avrebbero ognuno 68 auto di lusso, possiederebbero. Chiaramente qualcosa non funziona, i conti non tornano. E infatti, ovviamente, abbiamo citato l'Umbria perché è il caso con cui Roberto Ippolito, come ribadisco, apre il libro, ma in realtà poi si scopre leggendolo che anche altre regioni sono allergiche alle tasse. Insomma, un po' ovunque questo fenomeno c'è. Grazie a Tonino Morina e Roberto Ippolito per essere stati con noi. Li devo salutare molto rapidamente perché, come al solito, ho rubato 20 secondi ad Alessandro Milan. C'è evasione anche su questo fiscale. Esatto. Evasione fiscale di secondo. Vuoi combinare una multa in diretta? Bene, alle 12 no, arriverà una cartella a casa. Oddio, no. Alle 12 parliamo di bonus famiglie, ancora ribadiamo un po' tutte le novità che stanno arrivando progressivamente per questo bonus straordinario che molte famiglie a basso reddito possono ottenere. Le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. 349-238-6666 per i vostri messaggi, uno sguardo alle ultime notizie. Il governo prepara la linea dura per fronteggiare l'emergenza stupri. Allo studio è un decreto che vieta la concessione degli arresti domiciliari per chi è accusato di violenza sessuale. A Milano intanto denunciata ieri una nuova violenza ai danni di una studentessa boliviana, mentre a Roma si sono registrate alcune aggressioni punitive contro stranieri, picchiati 4 rumeni. In Sardegna si vota fino alle 15 per le elezioni regionali. La sfida è tra Ugo Cappellacci del centrodestra e Renato Soru del centrosinistra. Ieri alle 22 l'affluenza era del 44,93%. Daniela Martani, l'hostess Alitalia, reduce dal Grande Fratello, è stata licenziata dalla nuova compagnia per immotivata indisponibilità all'impiego. La lettera di licenziamento sarebbe già partita, ma per la Martani si starebbero aprendo le porte di un nuovo reality, La Fattoria. E veniamo al calcio, l'Inter si aggiudica il derby 2-1 sul Milan e vola verso lo scudetto, più 9 sulla Juventus, fermata in casa dalla Sampdoria, e più 11 sui rossoneri. Perde anche la Roma 3-0 a Bergamo con l'Atalanta. E sempre per il calcio, rimane in gravi condizioni il tifoso del Genoa, investito dal pullman della Fiorentina all'uscita dello stadio. I sostenitori genoani ieri avevano circondato il pullman della squadra viola picchiando contro le fiancate del mezzo. Il giovane tifoso sarebbe stato agganciato dal pullman, rimanendo schiacciato. È il momento, alle 8:34 minuti, del commento del direttore del Sole 24 Ore, dedicato oggi alle banche e i mutui. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Le banche non sono molto amate in questo paese, qualche volta ha ragione, altre volte sono anche loro vittime di pregiudizi, ma le rate sui mutui a tasso variabile faticano a seguire l'andamento in discesa del tasso Euribor, che venerdì scorso, per esempio, ha toccato a 3 mesi il minimo storico dell'1,94%. In teoria, dai massimi dell'anno scorso, vi ricordate quando l'Euribor era al 5%, l'abbattimento dovrebbe variare dal 10 al 30% a seconda del piano di ammortamento. La lentezza dell'adeguamento dipende dal tipo di contratto stabilito ed è opportuno verificarlo con la banca, ma in un momento così difficile, nel quale il risparmio non rende nulla o poche briciole, sarebbe gradito uno sforzo maggiore degli istituti di credito nell'informazione e nell'assistenza al cliente, magari rinunciando a qualche guadagno, specie quando si sceglie la sicurezza di un ancoraggio al tasso BCE. Dopotutto, l'aiuto pubblico, che verrà al capitale delle banche, con i cosiddetti Tremondi bonds, sarà costituito dal denaro dei contribuenti, cioè di tutti noi. Buona giornata. Grazie, buona giornata Ferruccio De Bortoli e a domani. Le 8:35 minuti. Come detto, è stata registrata un'altra violenza denunciata ieri a Milano dopo quelle di Bologna e Roma, insomma giorni nei quali purtroppo si registra una concentrazione di violenza e danni di donne, e come abbiamo sentito anche come si legge nei giornali, il governo preparerebbe una linea più dura con l'approvazione di un decreto. Ne vogliamo parlare con l'onorevole Alfredo Mantovano, che è sottosegretario agli interni. Buongiorno sottosegretario. Sì, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, che vuol dire il decreto e che vuol dire la linea dura che abbiamo letto sui giornali? Che cosa si appresta a fare il governo? Ci sono delle misure che sono già state approvate da un ramo del Parlamento, in particolare dal Senato, contenute nel disegno di legge sulla sicurezza. Queste misure prevedono una serie di restrizioni dei benefici penitenziari, per intenderci i permessi premio, la liberazione anticipata e così via, per i responsabili dei reati sessuali, prevedono che in fase di indagini la misura cautelare possa essere soltanto la custodia in carcere, quindi vi è una preclusione verso la concessione degli arresti domiciliari, prevedono ancora il gratuito patrocinio per le vittime e poi ci sono altre disposizioni per le quali si farà una valutazione se inserirle o meno in questo decreto, ma sono tutte disposizioni già ampiamente discusse in un ramo del Parlamento e quindi in qualche modo istruite dal punto di vista tecnico. Si tratterebbe di anticiparle dunque con un decreto sostanzialmente? Potrebbero essere riprese e anticipate perché il disegno di legge ha una sessantina di articoli molto complessi e quindi è immaginabile che la Camera dovrà avere i necessari tempi di approfondimento e forse potrà essere necessario un ulteriore ritorno al Senato, mentre invece vi è un'esigenza di rendere immediatamente operative queste disposizioni, queste a cui facevo riferimento prima. Sottosegretario, ha visto però per esempio il titolo di Repubblica assalto ai romeni, purtroppo ci sono da registrare anche alcuni raid di alcune persone scriteriate evidentemente che hanno colpito alcuni negozi ieri, c'è stata una violenza particolarmente odiosa, sappiamo a Roma proprio un paio di giorni fa i danni di una coppietta. Ecco, che cosa si sente di dire? Perché cresce anche nei reportage che l'invito a leggere sul Corriere della Sera, per esempio, la sensazione, anche nelle scritte, occhio per occhio, che sono apparse in alcuni quartieri, la sensazione di volersi fare un po' giustizia da sé. C'è una condizione di esasperazione che non va certamente assecondata o giustificata, ma che comunque è un dato di fatto e che trova una delle cause di spiegazione in risposte non adeguate sul piano della repressione da parte degli organi deputati alla repressione. Nel momento in cui si ripetono casi di stupratori individuati e arrestati che tornano in libertà dopo poche ore, il senso di frustrazione è grande ed è forte la tentazione di farsi giustizia da sé. Queste misure vanno però nella direzione di rendere la risposta repressiva più rigorosa e quindi di togliere spazio all'area di una iniziativa privata che in questo terreno provoca soltanto dei danni. Per esempio, forse lei si riferisce a quello che è successo a Bologna, sappiamo un'altra violenza nei danni di una sedicenne commessa da una persona che è stata denunciata un paio di volte per immigrazione clandestina e anche per spaccio di droga, però come lei ben sa, sottosegretario, la legge consente anche a un clandestino di sotto processo, credo, di rinviare l'espatrio se si vuole difendere all'interno del processo in Italia, mi pare che sia così la legge, e dunque che si può fare se non concedere? La legge avrebbe consentito anche la soluzione opposta, però qui quello di cui tutti ci dobbiamo convincere è che il sistema sicurezza non è un qualcosa in cui pochi, anzi una sola realtà recita una parte esclusiva e le altre stanno a guardare, ciascuno ha la sua parte, le forze di polizia certamente, ma anche l'autorità giudiziaria. Se le forze di polizia catturano il responsabile di reati così odiosi e questo poi o torna in libertà per decorrenza dei termini o va a casa dopo pochissimo tempo per il riconoscimento degli arresti domiciliari e così via, il lavoro di coloro che hanno svolto le indagini viene di fatto vanificato e aumenta l'esasperazione diffusa. Alla stessa maniera una parte la svolgono, sono chiamati a svolgerli alla luce anche di disposizioni recentemente introdotte nell'ordinamento su iniziativa di questo governo relativa alla sicurezza urbana che vanno nella direzione di arginare il degrado con illuminazioni più diffuse, con l'uso della videosorveglianza, avendo a disposizione dei fondi che, che vanno in questa direzione. Credo che serva un po' più di consapevolezza ciascuno di una parte da svolgere e di concordia in questa direzione senza rimpallare continuamente le responsabilità sugli altri. No, sì, poi la strumentalizzazione su questi fatti è particolarmente odiosa, se posso aggiungere. Sottosegretario, il ministro Maroni, proprio ai microfoni di Giuliano Ferrara, la nostra radio, ha detto che con le ronde forse si sarebbero potuti evitare alcune delle violenze recenti, parlava qualche giorno fa. Siccome sì, è un tema molto attuale la reintroduzione, la possibilità di fare le ronde, credo che il sindaco Alemanno si sia espresso in maniera contraria, non vorrei sbagliarmi leggendo quella. Lei che ne pensa? No, io non penso che il sindaco Alemanno abbia manifestato contrarietà. In ogni caso, nel disegno di legge approvato al Senato c'è una norma che fissa delle regole, cioè stabilisce che associazioni di cittadini privati possano però impegnarsi in attività di segnalazione di ciò che è anomalo per la sicurezza di tutti alle forze di polizia, a condizione che girino non armati e che abbiano una sorta di autorizzazione da parte del prefetto, vi sia quindi un vaglio della loro affidabilità. Tutto questo si inserisce su un fenomeno già in atto, non è che esce fuori adesso, lo regolamenta. E forse non sarebbe male che anche questa disposizione entrasse nel nuovo decreto, perché così questi paletti vengono resi disponibili subito. Se c'è una zona periferica non ancora compiutamente illuminata, un contributo di privati nei termini circoscritti che prima indicavo credo possa solo essere positivo. E c'è anche l'ipotesi di inserire sempre in questo decreto la norma, che peraltro è già stata bocciata dal Parlamento, di allargare a 18 mesi la permanenza nei centri temporanei per gli immigrati irregolari, una norma che vorrebbe fortemente il ministro Maroni e la Lega e sulla quale pare ci sia un polemica. Lei, la sua personale opinione è che potrebbe essere inserita oppure non è il caso? È inserito un allungamento dei termini di permanenza nei centri di identificazione di espulsione. A quanto? Ma 60 giorni sono, che è il termine attuale, sono pochi. Sarebbe sufficiente per le forze di polizia poter contare anche su un limite massimo di 5-6 mesi, magari con un vaglio periodico ogni 60 giorni da parte dell'autorità giudiziaria, come avviene adesso. Perché per esempio in questo momento a Lampedusa c'è una quantità considerevole di tunisini clandestini che certamente con le disposizioni attuali non riusciremo a mandare via tutti entro 2 mesi, visto che la Tunisia pone quegli ostacoli per riprenderseli tutti insieme. Allora a questo punto, al di là degli schieramenti dei partiti e delle maggioranze, credo che ci si debba tutti porre una mano sulla coscienza e decidere se una buona parte di questi soggetti allo scadere dei 60 giorni è giusto che riprendano a circolare liberamente o invece si possa avere qualche margine superiore per poterli restituire al paese d'origine. Io su questo la ringrazio, Alfredo Mantovano, voglio ricordare il sottosegretario agli interni, vedremo ovviamente se questo decreto insomma approderà, quando e se al primo consiglio dei ministri. Grazie per essere stato con noi. Le 8:47 minuti, allora è quasi tutto pronto per l'apertura del Festival di Sanremo, grande appuntamento nazional popolare che insomma tutti dicono di non guardare, ma molti guardano magari qua e là spizzichi e bocconi, e sul quale immancabilmente piovono le polemiche ogni anno. Quest'anno, a cominciare da quello che Bonolis, candidamente tra l'altro intervistato da alcuni ragazzi, ha ammesso. Sentiamo. Quanto guadagna per Sanremo? Per Sanremo guadagno 1 milione di euro. Poco, eh? No, non è né poco né tanto, è giusto, perché ti occupi di una cosa che renderà parecchio, mi auguro, che richiede più di un anno di lavoro circa, che non è solamente condurre ma è fare la direzione artistica, quindi preparare tutto, e perché il mercato è fatto così. Allora, il mercato è fatto così. Nino Rizzonervo, buongiorno, del Consiglio di Amministrazione della RAI, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, il mercato è fatto così, tutto tranquillo, non c'è da che stupirsi, dice, di questo 1 milione di euro? Ma francamente io do ragione a Bonolis, non perché sono una delle parti in causa, quantomeno non personalmente, lo sono come RAI. Mi sembrano delle polemiche che ricorrentemente avvengono e che non tengono conto di tante cose. Ora, non è una sorpresa sapere che i personaggi dello spettacolo, i personaggi dello sport costano. Non è neanche una sorpresa, ho sentito che Bonolis l'ha detto con chiarezza, che se si vuole fare una trasmissione che possa portare pubblico e quindi ricavi pubblicitari, bisogna rivolgersi al top che esiste sul mercato, certo. E Bonolis è tra questi. Qualcuno può dire, insomma, facciamo l'esempio i campioni di calcio, però questi sono soldi pubblici anche pagati con il canone di tutti i cittadini. Ma guardi, le rispondo subito che questa affermazione non è assolutamente vera. Come lei sa, la RAI ha due ricavi, quello dal canone e quello dalla pubblicità, che ormai quasi si equivalgono. Tra l'altro, da 3 anni la RAI è obbligata alla contabilità separata, cioè ad evidenziare cosa si fa con i soldi del canone e cosa si fa con i soldi dei ricavi pubblicitari. E questa contabilità è sottoposta al controllo dell'Agicom e di una società di revisione che è scelta non dalla RAI e dall'Agicom, ma dall'Agicom, e negli ultimi anni questa contabilità ci dice che 300 milioni circa di pubblicità vengono utilizzati per trasmissioni di servizio pubblico e non viceversa, e non è il canone ad essere utilizzato per trasmissioni commerciali. Allora le chiedo sull'altra polemica che se n'è stata in questi giorni, vale a dire lo scambio che ci sarebbe stato tra Viale Mazzini e Roberto Benigni. Per averlo a Sanremo, la RAI cede i diritti delle sue partecipazioni alla TV di Stato da sfruttare per l'on video. Qualcuno parla di 350.000 euro, qualcuno li quantifica addirittura in 2 milioni. Oggi Aldo Grasso dice la RAI non può privarsi di un suo bene comune. Certo, fa cassa, come si dice, ma si priva di un patrimonio che è di tutti, pagato con il canone. Anche qui Rizzo Nervo, torniamo. Che dice questa polemica su Benigni? È caduta la linea. Voglio salutare Lannutti, allora. Senatore Lannutti? No, anche senatore Lannutti è caduta la linea. Anche Rizzo Nervo è caduta la linea. C'è stato un tracollo delle linee. Allora, vediamo di recuperare il consigliere di amministrazione Rizzo Nervo. Cosa succede? Sostanzialmente oggi sul Corriere della Sera lo scontro su Benigni, diritti DVD ceduti dalla RAI per 350.000 euro. Questo almeno leggo sui giornali. Rizzo Nervo, abbiamo ripristinato la linea. Sì, eccoci, sì. Qua. La polemica su Benigni. Cedere, se questa è la parola giusta, i diritti per 350.000 euro per una sua presentazione. Guardi, posso dire una cosa? Sì. Tutto questo nasce secondo me perché domani comincia Sanremo, e quindi Sanremo deve essere preceduto. Beh, ma lo sai, così ogni anno. Da polemiche. Ora, io vorrei chiarire, la RAI cede a Benigni la possibilità di sfruttamento di alcuni segmenti di sue trasmissioni per l'on video. La RAI non ha i diritti per l'on video su queste immagini. E nel frattempo la RAI resta, a differenza di quanto è stato scritto e detto, proprietario dei materiali su cui ha un esclusivo uso sulle piattaforme tutte televisive e radiofoniche. Quindi rimango alla RAI che potrebbe trasmettere. Ho letto che la RAI cedeva, faceva uscire dalla sua teca 630 minuti di trasmissione di Benigni. Non è assolutamente vero, restano in teca RAI. E la RAI, se volesse, domani può fare un canale digitale tutto Benigni. Allora, no, sentiamo cosa risponde a queste polemiche il senatore Leo Lannutti, che voglio salutare, Italia dei Valori, presidente Adusbef Consumatori. Lannutti, lei è sulle due cose, sia su Bonolis e anche questo su Benigni. So che invece si è battuto molto a dire no, è uno sperpero, è uno spreco scandaloso, soprattutto di sti tempi. Sì, anche perché il consigliere Rizzo Nervo, che saluta come tutti gli ascoltatori, probabilmente non ricorda che nella finanziaria 2007 sono stati imposti dei tetti che non devono superare 250.000 euro, e uno, se va a leggere che cosa diceva Cappon al Corriere della Sera il 15 marzo 2007, diceva: ma tanto ci sono solo pochi che superano questa somma di 250.000 euro. Allora, un paio d'anni fa credo che con la vicenda Unziker credo si sia dovuto anche fare un decreto, un qualcosa per sforare esiste, il tetto. Esiste, insomma, qui esistono le leggi semplicemente per aggirarle. La cosa che a noi, perché io non vado con l'auto blu in giro, vado con mezzi pubblici, in metropolitana, e spero che ci vadano anche i consiglieri di amministrazione sulla metropolitana e insomma e sugli autobus, ed è scandaloso il compenso di Bonolis di 1 milione di euro. Tra l'altro mi risulta che anche la moglie, ci sono affari di famiglia, l'ha pubblicato qualche giorno fa La Stampa, il quotidiano La Stampa. È scandaloso, in tempi in cui la gente deve tirare la cinghia, difendere stipendi di 1 milione di euro che sono pagati dal canone. Anche beh, dal però canone. Rizzo Nervo ci dice che non è così, insomma, che il mercato è questo, che non sono pagati dal canone. Rizzo Nervo, forse anche la questione del tetto della finanziaria forse non vale per le prestazioni artistiche, ma... No, guardi, io mi rendo perfettamente conto che soprattutto in periodi come questi un compenso di questo genere possa questo creare... Sì. Guardi che ne parlano in metropolitana, io la prendo la metropolitana, la gente ne parla, legge stupite, sì, basite. Ma non v'è dubbio su questo. Però vorrei capire una cosa, mi soffermo soltanto su Sanremo. Ora, Sanremo è un evento televisivo che la stessa Agcom pone tra quegli eventi che devono essere mandati in chiaro, giusto o sbagliato, e quindi evidentemente sì. È l'evento televisivo dell'anno. Sanremo è un evento televisivo che porta ricavi pubblicitari alla RAI che sono necessari per i suoi bilanci, come ho detto prima, anche per finanziare trasmissioni di servizio pubblico. I ricavi pubblicitari arrivano in relazione a chi fa Sanremo, non è indipendente per un investitore pubblicitario sapere che c'è Bonolis, Bonolis o ma... se Sanremo non fa un altro. No, ma su questo è stato chiarissimo Rizzo Nervo. Io, perché mi devo fermare, non è neanche aiutato molto quel buco, insomma, con le linee cadute, così come ringrazio Lannutti, le prometto, magari la richiamiamo, così c'è un po' più tempo per articolare, tanto Sanremo questa settimana c'è. No, vi ringrazio, staremo a vedere se le polemiche rimarranno su Bonolis, Benigni, compensi questa settimana, o se ci sarà solo della musica, poi chi vuole l'ascolti, chi vuole no. Tra poco Giuliano Ferrara, Francesco Rutelli è l'ospite oggi. 800 24 00 24 per intervenire. Voi potete scriverci a 24 mattino @radio24.it. A domani.